Radio 24 Reportage. Tutti i luoghi di Sanremo, di Marta Cagnola. Per una settimana questa è la capitale della musica. C'è il mare, ci sono i fiori, soprattutto c'è il Festival della Canzone Italiana. Siamo a Sanremo, siamo nel Teatro Ariston. Qui gli addetti ai lavori vivono la macchina della più grande manifestazione di spettacolo italiana. Fuori la folla dei curiosi, degli appassionati. Dalla sala stampa sul tetto del palazzo guardiamo tutti dall'alto. Da questa terrazza si vede una parte molto importante di Sanremo, si vede il tappeto rosso che porta al Teatro Ariston, che poi è il cuore del festival da quanti anni? Lo chiediamo a Walter Vacchino, che è qui il padrone di casa. Dal 77 il festival è ospitato da noi, per motivi occasionali si è trasferito in maniera provvisoria e provvisoriamente dal 77 lo stiamo ospitando. C'è stato l'inagibilità di una sala che per un guasto, un accidente che è successo 10 giorni prima, non potevano in breve tempo ripristinare la sicurezza di quella sala e quindi hanno optato di venire da noi. Doveva essere temporaneo, un anno? Sì, sono venuti, tant'è vero che in quell'anno il festival è stato montato nella giornata di lunedì e martedì. Mercoledì hanno fatto le prove, giovedì, venerdì e sabato festival e domenica smontato e rifatto cinema. È chiaro che adesso è tutta un'altra cosa, basta vedere un attimo un'immagine del festival e si capisce che il lavoro dietro è tanto. Come mai poi alla fine, se c'è una ragione, se lei se l'è mai chiesto, se gliel'hanno mai detto, il festival è diventato in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo? Ma per un semplice motivo, il mio motto è la struttura fa cultura. E quindi qualsiasi cosa che non sia strutturata diventa effimero. E l'avere delle mura, della tecnologia, delle attrezzature che riescano a concentrare le intelligenze e il lavoro delle persone agevola sviluppare meglio il loro lavoro. E quindi il prodotto che ne esce senza dubbio è migliore. E il nostro è un paese che ha bisogno di essere magari strutturato un po' meglio in linea generale per poter procedere. Le posso dare un esempio divertentissimo. Stavo facendo una ricerca storica sul Cinema Teatro Centrale, che è del 1924. La licenza e la richiesta della licenza è stata presentata nel 23 il lunedì e dopo 3 giorni il venerdì è stata data l'autorizzazione a procedere, cemento armatico e autorizzazione a costruire. Turisti che vengono a Sanremo durante l'anno vengono a fare il pellegrinaggio al Teatro Ariston? Sì. Sì, tant'è vero che noi abbiamo realizzato al mattino delle visite del teatro, noi lo chiamiamo il nostro museo virtuale, per cui tu ti addentri dentro i corridoi, gli atri e nelle sale, appositamente ci sono rulli da cui escono materiale fotografico, gli schermi si illuminano perché ci sono documenti di tutte le scenografie, parti del Tenco, e sui display noi stiamo raccontando un po' tutto quello che succede dentro l'Ariston. Poi si prosegue nei camerini, si scende nel palcoscenico e poi si finisce nello shop, nel negozio, dove uno può comprare anche una tazzina del bar dell'Ariston. Attorno al teatro in tanti suonano, cantano, cercano un momento di visibilità. A volte si trovano anche dei talenti veri. Oggi ce n'è uno che suona proprio all'edicola di Piazza Colombo, a un passo da qui. Il concerto? Sì, molto. Mi sono fermata appositamente. Molto bravo. Sì, perché a Sanremo c'è il festival, ma se uno non va all'Ariston non la sente la musica in giro. Appunto. No, canta molto bene. Di dov'è questo ragazzo? Lui è di Roma e andiamo a conoscerlo, Francesco Spaggiari. Per ora ho fatto soltanto concerti romani e mi sono regalato questa vacanza sanremese per provare a fare la stessa cosa. Sono arrivato qui con uno scatolone di dischi omaggio. E distribuisco in omaggio sia in questa edicola che a Piazza Colombo che quella di là al casinò in via Corradi. Ho trovato Virgilio e Corrado, che sono due miei edicolanti complici di questo gioco, e sta andando bene. Avevo già suonato in strada, non in maniera così strutturata, non con la corrente, non con l'amplificazione, perché mi piaceva questa idea di poter confrontare direttamente sul posto, ecco, la reazione del pubblico. Si trova un pubblico sorprendente, cioè, dai bambini agli anziani, persone che vanno a fare la spesa, poi tornano, si comprano il disco, si fermano a chiacchierare. Quando comincia a suonare nessuno ti si fila, poi piano piano comincia qualche curioso, gente che è uscita per fare altro, a cui rubi e loro ti regalano quei 5 minuti, 10 minuti di attenzione, cioè anche persone che sono tornate più volte a seguirmi. Esibizioni estemporanee nelle vie e nelle piazze rendono musicale questa città nei giorni del festival, ma c'è chi vuole rendere questo posto città della musica ogni giorno dell'anno. Allora, siamo con Pepi Morgia su una piccola terrazza in un luogo che non tutti conoscono a Sanremo, ma un luogo incantevole. Un luogo molto affascinante del teatrino della Federazione Operaia, che è un luogo storico di Sanremo, perché qui sono nati proprio i primi moti culturali, e quindi è un piccolo spazio, un gioiellino, come lo definisco, di 99 posti con un palcoscenico tutto micro, e insomma io cerco di riportarlo agli albori che ha avuto nella città di Sanremo. Intanto, se qualcuno sente suonare, è davvero Alberto Fortis che sta davvero suonando Settembre, è perché tu vorresti che la musica permeasse questa città, non solo in questo luogo e soprattutto non solo una settimana e al Teatro Ariston. Esatto, cioè voglio dire, io intendo Sanremo Città della Musica, che è un progetto che è anni che porto avanti, prima come direttore artistico del Comune, ora come direttore artistico di Sanremo Off, ma poi sono stato rincaricato dal Comune per seguire i grandi progetti, quindi il progetto della Città della Musica dovrebbe vivere Sanremo di musica e fiori, perché è un'altra nostra esigenza della città, che appunto in tutte le vie si senta musica in ogni piazza, in ogni teatro, quindi fare convegni, convention, concerti, esposizioni, mostre, come succede su Sanremo Off, però tutto l'anno. Quali sono i luoghi segreti di Sanremo che dovremmo scoprire noi che ci veniamo a volte solo una volta l'anno? I luoghi segreti sono per esempio la Pigna, che è uno dei centri storici più grandi d'Europa, e sono un dedalo di viuzze fatte a pigna, si chiama pigna perché è fatta proprio come una pigna, e anche lì però stanno nascendo, ci sono locali, quelli che definiscono alternativi, dove i giovani vanno a passare la notte, quindi anche lì mando artisti di Sanremo Off, ma anche artisti che hanno partecipato al festival, vanno lì a passare a fare delle jam session e nascono sempre delle cose molto interessanti. Poi c'è, vabbè, la nostra pista ciclabile, che è conosciuta, ma di notte è ancora più bella perché è pochissima gente, quindi una passeggiata romantica in bicicletta come ieri sera, che ho potuto godere questa luna piena che c'era, è veramente. Poi pensiamo sempre al clima di Sanremo, che noi siamo dei fortunati avendo un clima così caldo e mite quasi tutto l'anno. E il mare, non ce lo dimentichiamo, perché non è solo la città della musica, di fiori, ma anche del mare, dai. Beh, il mare certo, per noi è una cosa scontata. Poi noi ci reputiamo un po' internazionali perché siamo a 15 km da Monte Carlo e siamo più vicini a Parigi che a Roma, quindi abbiamo più un occhio francese che italiano. Io da ragazzino andavo a fare le mie prime dragueur con le ragazzine francesi e non italiane, perché andavamo a fare la spesa a Nizza piuttosto che a Monte Carlo. Quindi. Poi altri luoghi interessanti, la Chiesa Russa per esempio, noi abbiamo una Chiesa Russa che è la più grande d'Europa, anche quella è conosciuta, ma poca gente ci entra, cioè, la vedono fuori, ah sì, bella. Cioè, e poi tutte delle ville storiche, le ville storiche da Nobel, Ormon, cioè sono tante ville dove sono state abitate da grandi nomi dell'aristocrazia, oppure come Nobel, che è il premio Nobel, che oggi sono comunali e quindi con dei bellissimi parchi e delle location straordinarie. Mentre la città saluta il festival con un po' di nostalgia e un po' di sollievo, noi salutiamo Sanremo, come al solito portandoci via i fiori e i baci, i piccoli dolci di cioccolato, e da addetti ai lavori qualche ricordo, cosa che il papà dell'Ariston, Walter Vacchino, sa bene. La cosa che io trovo straordinaria è l'incrociarsi delle vite di, delle persone che si rivedono per il festival una volta all'anno, e questa volta all'anno diventano 2 anni, 3 anni, 4 anni, per cui ci sono persone che ormai sono diventate amiche e che nel momento del festival raggiungono la 30ª volta che ci vediamo o la 20ª, quindi si è creato un rapporto affettivo di amicizia con tantissime professionalità, e questo direi che forse è il patrimonio più ricco. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.